24 mattino. 24 mattino di giovedì 23 febbraio, un saluto da Gigi Donelli, da Peter Bescapè in regia, come sempre a quest'ora del mattino. Eccoci dunque a vedere insieme, naturalmente tra qualche istante, quelle che sono le notizie, le principali, gli eventi raccontati, raccolti nelle prime pagine dei quotidiani in edicola, ma parleremo più tardi anche di un tema importante, ricorrente in questa settimana, non solo, insomma, il grande tema della sanità, il pronto soccorso, l'allarme nei luoghi dove l'allarme si raccoglie per definizione, quindi al pronto soccorso delle città italiane si registrano, e oggi è davvero una vera propria ondata di notizie, di aggiornamenti, di cronaca, quelle che sono le grandissime complessità che sta vivendo il settore della sanità e in particolare quel luogo di ingresso, di transito, ma anche vedremo di raccolta, di difficoltà e di varia umanità. Ne parleremo con i medici del pronto soccorso a partire dalle 8:30. Prima invece faremo un punto intorno alle 8:20 sulla situazione nel Mediterraneo del Sud, partendo dalla Siria, ma non solo, una situazione che davvero degenera, una situazione che precipita. Ma ora ripartiamo dalla nostra edicola. Non ho mai visto una repressione così feroce. La popolazione vive nel terrore del massacro. Queste alcune delle ultime righe scritte dalla giornalista americana Mary Colvin, che come avete sentito, se avete ascoltato GR24, è stata uccisa assieme al fotoreporter francese Rémi Oschlick. Oschlick aveva 22 anni. Bene, Mary Colvin davvero ne aveva viste di tutti i colori, e per scrivere nella sua vita professionale, il suo percorso soltanto degli ultimi anni l'ha portata attraverso la Libia, attraverso l'Iraq, insomma i luoghi davvero più pericolosi. Per arrivare a scrivere questo e a farlo pochi giorni fa, evidentemente aveva delle ragioni forti, e spiegava in uno dei suoi ultimi appunto scritti che era impressionata dalla volontà, era convinta che Bashar al-Assad, il presidente, sì, insomma, l'erede peraltro di padre e figlio, che e padre e fratello, quindi suo zio, alla guida della Siria, al-Assad avesse deciso di ammazzare i 28.000 abitanti del distretto di Baba Amr uno a uno per il loro appoggio all'esercito della liberazione, all'esercito di liberazione siriana. E ha concluso con una frase, il suo articolo, ha detto: è come Srebrenica, da due settimane i bombardamenti sono quotidiani. Dunque Srebrenica, la storia dell'Europa che ci riporta negli anni 90 all'enclave musulmana in territorio serbo, alla presenza dei militari occidentali che assistono passivamente allo sterminio allora di migliaia di persone. Oggi una storia si ripete nella cronaca di una giornalista che appunto ieri è stata uccisa con un collega, peraltro un'altra collega francese è in gravi condizioni. Prime pagine ci riportano ai grandi temi, ai temi principali, partendo direi dal lavoro. Lavoro, la sfida di Fornero sulla riforma, avanti comunque, e il ministro dice: se la trattativa fallirà il Parlamento dirà se ci appoggia o meno, e Bersani replica: serve un buon accordo. Poi c'è per sempre sulla stessa prima pagina, temi internazionali, proprio una foto di Mary Colvin, ma anche il richiamo, una lunga intervista a Aung San Suu Kyi: grazie all'embargo la Birmania rivivrà. Quindi il premio Nobel per la pace che racconta le sue scelte, la sua lotta di molti anni per la democrazia. Il Sole 24 Ore apre sullo spesometro più leggero: accolte le richieste degli operatori, nessuna selezione per le comunicazioni da inviare al fisco. Intanto però l'UE rivede le stime di crescita del 2012 per l'Italia, è un meno 1,3%. Taxi e farmacie, si cambia per il Messaggero questa mattina. Le pressioni delle lobby per modificare il decreto sulle liberalizzazioni e sullo stesso tema per Repubblica invece liberalizzazioni vincono le lobby. Il governo cede sui taxi, questa è Repubblica, farmacie e gas. Bombassei critica la Marcegaglia, qui ha esagerato sui sindacati, quindi Repubblica diciamo ricompone una serie di temi sulla politica, sui temi della trattativa, del lavoro, e aggiunge il quotidiano, il pranzo Monti-Berlusconi, quindi alcuni degli elementi principali della giornata politica. Ma nel richiamo a questa che appunto Repubblica definisce la vittoria delle lobby c'è lo slittamento anche della norma sull'ICI alla Chiesa, e le prime righe sono esplicite: ancora una volta il governo cede sulle liberalizzazioni alla volontà bipartisan dei partiti, non passano i provvedimenti relativi a taxi, farmacie e gas, scompare anche l'annunciata norma per imporre l'ICI alla Chiesa. Mentre sul Messaggero, che vi ho citato poc'anzi, anzi a centro pagina, ci riporta alla scena impressionante del Concordia, quindi all'isola del Giglio, la Concordia inclinata. Il titolo è: altri 7 indagati, trovato il corpo di Diana, quindi i corpi recuperati. Stesso quotidiano, un focus dedicato invece al caro vita, il carrello della spesa più caro del 4%. Il carrello della spesa costa sempre di più, i prezzi degli acquisti primari e spesso irrinunciabili mostrano un aumento del 4,2%. La chiave di lettura è soprattutto legata all'aumento del costo dei carburanti, e ci sono indicazioni precise a tavola, appunto, come dove gli italiani scoprono le sorprese più amare. Il caffè, ad esempio, schizza su del 16%, il pesce quasi del 4%, ma anche pasta e pane che segnano rincari rispettivamente del 2,9% e del 2,1%. Ecco dunque questi alcuni dei temi. Un altro tema che troviamo diffusamente questa mattina, insomma, il dietrofront scientifico, i neutrini, la luce, rivincita di Albert Einstein. Non sono più veloci della luce, un errore del cavo di connessione aveva falsato i dati. Sul Corriere della Sera oggi, nel taglio basso, un articolo a firma di Giovanni Caprara. Neutrini dunque non sono più veloci della luce. Le misure rilevate il 23 settembre 2001 sarebbero dovute a un'anomalia. La discrepanza di 60 nanosecondi tra velocità della luce e quella dei neutrini potrebbe derivare da un malfunzionamento del cavo a fibra ottica che collegava un ricevitore GPS a una carta elettronica di un computer. 24 mattino. La beffa dei neutrini super veloci, ci eravamo dunque fermati su questo punto. Riabilitato Einstein, scrive oggi in prima pagina il Corriere della Sera, a scoprire l'anomalia negli strumenti lo stesso gruppo del CERN che fece la ricerca. Che succede in estrema sintesi, ci racconta Giovanni Caprara. I fisici impegnati nelle verifiche al CERN di Ginevra, da dove partiva il fascio di particelle per il loro viaggio di 730 km verso il laboratorio del Gran Sasso, hanno scoperto due anomalie che sono alla base dell'errore di calcolo, e i 60 nanosecondi in meno che dovevano abbattere la fatidica barriera della velocità della luce di 300.000 km al secondo non ci sono più, tutto è rientrato nella norma, Albert Einstein ha ancora una volta ragione, il suo limite per ora resta invalicabile. Questa è dunque una vicenda che ha catturato naturalmente l'attenzione, che ora viene vissuta come una delusione, ma tutto sommato fa parte di quelli che sono i rischi della ricerca scientifica. Torniamo al tema del lavoro e ai mal di pancia, alle divisioni per tutta la settimana. Stiamo vedendo, di fatto siamo partiti all'inizio della settimana da quelle interne al PD, dalle divisioni all'interno dei gruppi, appunto, di interesse dei partiti politici e delle organizzazioni. Ecco, per il Corriere l'apertura oggi, il titolo d'apertura è sulle imprese. Le imprese divise sul lavoro, niente documento comune delle aziende. Piccole e grandi imprese non trovano un'intesa sugli ammortizzatori e Scrive appunto il Corriere oggi: alla fine neanche l'impresa hanno trovato un accordo. Oggi alle 18 all'incontro tra governo e parti sociali presso il Ministero del Lavoro, che riguarderà in particolare i contratti, il documento comune sulla flessibilità in entrata porterà la firma di Confindustria, ABI, ANIA, delle cooperative. Resta fuori Rete Impresa Italia perché, come spiega il presidente di turno Marco Venturi, il dialogo con le altre organizzazioni imprenditoriali non ha dato i risultati attesi. Confindustria compatta con la Marcegaglia, la riforma va realizzata, così il Sole 24 Ore di questa mattina, ma non mancano, ve ne ho già citati appunto, descrizioni diverse di questa fase. E per il giornale di Sallusti è invece: Confindustria si spacca, bomba 6 attacca la Marcegaglia, sull'articolo 18, e questo è sotto un grande titolo che invece dice semplicemente Bersani licenziato, pensava di vincere e invece puntini. Insomma, il grande tema del lavoro è ovviamente al centro delle appunto delle complessità del dibattito, delle tensioni. A questo proposito, un passaggio cruciale per il governo: le forti pressioni sul PD. Questo è il titolo del punto di Stefano Folli, che dice: liberalizzazioni e semplificazioni non creano nemmeno la metà dei problemi politici sollevati dal negoziato sulla riforma del lavoro. Lo scenario, scrive appunto Folli sul Sole ovviamente questa mattina, si può riassumere così: enorme pressione sul Partito Democratico, rischio per i sindacati di subire una grave sconfitta, e sullo sfondo Berlusconi. L'ex premier ha scelto di sedersi sulla riva del fiume e di osservare gli eventi. Ieri 3 ore di colloquio con il Presidente del Consiglio e poi un profilo basso, del tutto inusuale, sulla questione del lavoro e connesso articolo 18 naturalmente. L'ex premier si limita a far girare la voce che la sua richiesta a Monti è stata ovviamente quella di non farsi condizionare. Insomma, questo per diciamo le tattiche, in attesa chissà che si lanci uno sprint. Ma ci sono poi le difficoltà di Bersani, rappresentate anche plasticamente da così tanti titoli in questi giorni. Scrive Folli: la difficoltà in cui si muove il partito di Bersani non ha bisogno di essere descritta perché è sotto gli occhi di tutti, ma è vero che gli ottimisti sono ancora la maggioranza e scommettono che alla fine l'accordo con i sindacati si farà, ma è anche vero che in questa fase nessuno può essere certo dell'esito finale, l'approdo ancora non si intravede e ognuno recita la sua parte, e i sindacati dovranno anch'essi compiere scelte complesse, e lo stesso complesse che saranno di fronte all'accordo e al mancato accordo, e lo stesso appunto avverrà con il mancato accordo. In quest'ultimo caso per il governo il governo andrà avanti con il suo progetto, come annunciato dal ministro Fornero, e per i partiti sarà dunque una chiamata in Parlamento a prendersi le loro responsabilità, ossia a votare la fiducia al governo oppure a decretarne la caduta. Allora, diciamo che ieri, conclude Folli, la posta in gioco è aumentata, un rischio calcolato da parte del governo tecnico, fiducioso che alla fine nessuno avrà il coraggio di rompere. L'alternativa sarebbe una crisi senza paracadute che tutti temono. Ecco, il lavoro direi che si lega quasi... almeno nella mia testa, il lavoro allo stipendio, e dunque stipendi da pubblicare, tutte le resistenze dei manager di Stato. C'è un articolo di Sergio Rizzo sul Corriere che parla di un altro termine. Ieri c'è stata la grande lettura appunto degli stipendi all'interno del governo. Il ministro della pubblica amministrazione Filippo Padroni Griffi sta incontrando resistenze per avere dal governo la lista con un centinaio di nomi di presidenti e direttori generali il cui stipendio supera quello del del primo presidente di Cassazione. Ecco la campagna di trasparenza voluta fortemente da Mario Monti va avanti e naturalmente incontra anche delle difficoltà. Oggi dunque un nuovo termine, staremo a vedere, vi aggiorneremo. Abbiamo parlato tanto, l'abbiamo non solo qui a Radio 24, ma direi che è diventato veramente un tema di quelli da bar, da autobus, da scambio sugli stipendi del governo. E oggi il ministro della giustizia Severino racconta in una lunga intervista a Repubblica appunto anche quella che è la sua storia professionale e naturalmente partendo dallo stipendio. Guadagno e non mi imbarazza, con i miei 4 milioni di tasse, dice, si può costruire un ospedale. Chiede Liana Milella nell'intervista, insomma, magari prova imbarazzo o quantomeno pudore a far sapere che guadagna tanti soldi, magari sa com'è il vicino amica e così via. Pudore sì, dice il ministro, perché non ho mai voluto ostentare i risultati economici del mio successo professionale. Imbarazzo no, perché guadagnare non è un peccato se lo si fa lecitamente, producendo altra ricchezza e pagando le tasse. Ecco, insiste su questo legittimamente, direi, su questo punto il ministro. Guadagnare non è un reato, lo è invece non pagare le tasse. Ma c'è anche tempo e spazio in questa lunga intervista che vi segnalo a pagina 9 di Repubblica per parlare, diciamo, dell'azione giovanile del ministro. Da ragazza a Napoli era ugualmente ricca, al denaro se lo è conquistato o la sua famiglia ha contribuito? Questo è un interrogativo, direi, che emerge di fronte a qualsiasi ricchezza. La risposta è: sono nata in una famiglia borghese nella quale lo studio e il merito rappresentavano l'unico mezzo per realizzarsi, una cultura ereditata da mio nonno, impiegato postale, che fece studiare e laureare con evidenti sacrifici tutti e sei i suoi figli, di cui tre femmine. Ecco, questo naturalmente è una piccola citazione dall'intervista realizzata da Liane Milella oggi al ministro della giustizia Severino. Vediamo ancora qualche prima pagina. Il secolo XIX, lavoro, Fornero balla da solo, ma a centro pagina anche torna tra virgolette Celentano da Santoro e rivolta delle TV locali, oggi il CDA Rai, stasera il molleggiato in onda, quindi una nuova puntata un po' della querelle Celentano. Questa volta sarà da Michele Santoro per parlare della sua performance al festival, ma gli editori delle TV locali che ospitano la trasmissione servizio pubblico sono pronti ad oscurarlo. Questa una nuova puntata della saga Celentano sul secolo XIX questa mattina in edicola. Ed eccoci arrivare invece ai temi internazionali che spesso sono affrontati in primo piano e con ampio spazio da Avvenire. Strage per coprire le stragi è il titolo che appunto racconta la morte dei reporter da cui abbiamo cominciato questa mattina. Quindi in Siria altro sangue, tensione sempre altissima, negli scontri 35 vittime ed è un vero e proprio attacco al centro stampa dell'opposizione. Tra i tre morti un'americana e un francese. A taglio centrale invece c'è una notizia che è quasi, anzi direi, assente dalla grande maggioranza degli altri quotidiani, non solo in prima, ed è il summit sulla Somalia che oggi si apre a Londra. Rieccoci, sono le 7:47 minuti, dicevamo terzi Somalia al punto di non ritorno, i grandi adesso aiutino la democrazia, oggi in prima pagina su Avvenire, per ricordare che è al via a Londra il summit di 40 paesi per trovare, come dire, un accordo comune per riportare in qualche modo la Somalia nel consesso delle nazioni, un paese lacerato, letteralmente spezzato ormai in più parti, con eserciti stranieri nel territorio, insomma una complessità davvero esemplari. Per Terzi, che rilascia dunque una lunga intervista sulla diplomazia italiana, bisogna affrontare ormai collettivamente la Somalia. Somalia perché si trova a un punto di non ritorno, e spiega nell'intervista: la Somalia rappresenta, indipendentemente diciamo dalla sua complessità e da un certo desiderio, non suo, ma diciamo della società tra le righe, di abbandonarla al suo destino, rappresenta in realtà un punto chiave in termini di posizione, un punto chiave in termini anche di passaggi di gruppi armati, di gruppi di interesse, insomma un paese a cui siamo costretti in qualche modo a occuparci in maniera inevitabile. E a questo proposito vi segnalo dunque l'intervista, vi segnalo anche sabato mattina alle 8:15 abbiamo un interessantissimo reportage realizzato per noi da Ugo Borga, che in Somalia c'è stato e avrete anche modo di sentire proprio come davvero sia un far west africano, un luogo estremamente pericoloso, estremamente complesso, dove comunque si muovono, all'interno del quale si muovono delle dinamiche di interesse economico anche molto forti, con terzi su Avvenire, anche ovviamente lo spunto per il quotidiano dei Vescovi di parlare della crisi dei Marò. E su questo fronte l'India infatti insiste e dice: andiamo avanti con le nostre leggi. Dunque la visita di ieri a Nuova Delhi del vice ministro degli esteri Staffan de Mistura, l'annuncio dell'arrivo in India nelle prossime settimane del responsabile del dicastero Terzi, la diplomazia italiana continua dunque a giocare le sue carte. L'obiettivo resta ottenere che al caso sia riconosciuta la giurisdizione italiana in quanto avvenuto in acque internazionali, e perché riguarda militari che sono sotto diretta responsabilità dello Stato italiano. La vicenda è in pieno svolgimento. Eccoci, questi quelli che abbiamo letto. Ci rimane a proposito di lavoro, il titolo del Lavoro invece ci riporta all'Unità. Lavoro, Fornero minaccia in questo caso, il sì del PD non è scontato, andremo avanti lo stesso. Questo riporta il quotidiano appunto questo è il taglio che il quotidiano riporta sul tema del lavoro. A centropagina invece il Manifesto di Parigi, l'intesa tra i progressisti europei, il 17 marzo Hollande, quindi Bersani Gabriel, Hollande candidato alla presidenza francese, firmeranno un programma comune. Poi abbiamo molte interviste e di corsa ve ne segnalo qualcuna. Una interessante riguarda i lunghi giorni di Caselli, il magistrato e le minacce che subisce. Oggi a pagina 15 su Repubblica racconta di un clima pesante nel paese. A 72 anni compiuti, Giancarlo Caselli è di nuovo nel mirino, colpevole di aver sostenuto l'accusa che ha portato in carcere 26 antagonisti individuati nei filmati a lanciare sassi, estintori, bottiglie di ammoniaca contro la polizia e carabinieri in Val di Susa. Come si sente nel mirino? E lui risponde: vivo con la scorta dal 1974, quando mi fu assegnata l'inchiesta sul sequestro del magistrato genovese Sossi, accusato di avere le manette troppo facili. Dunque dice: non è certo questo che mi impressiona, 37 anni, uno ci fa l'abitudine. Eppure prosegue: per regola non chiedo mai spiegazione alla scorta, loro fanno il loro mestiere, rischiano, e più di una volta in questi anni mi hanno salvato la vita, però da qualche settimana ho notato che hanno rafforzato le misure di sicurezza. Io ancora non chiedo che mi si rappresenti sempre avvolto nel tricolore, sarei ridicolo, ma non posso accettare questa campagna organizzata per delegittimare e intimidire. Se si scrive su un muro Caselli come Ramelli, si deve sapere che Ramelli venne ucciso a sprangate, e l'aspetto preoccupante è che solo chi lo sa può avere scritto una frase del genere. I lunghi giorni di Caselli, oggi su Repubblica. Vi segnalo invece anche sul Sole 24 Ore, a pagina 10, sotto un grande titolo che parla di un nuovo declassamento della Grecia a C da parte di Fitch, un'intervista a Martin Schulz, il presidente dell'Euro Parlamento, che compie la prima visita all'estero. Oggi sarà in Italia e proprio di pacchetto delle misure appunto prese nelle ultime ore. Si parla con Beda Romano. Il pacchetto non è del tutto convincente, chiede Beda Romano Schulz. Direi proprio di no. Ridurre le spese o riformare l'amministrazione sono misure necessarie per ridare competitività al paese, ma bisogna anche attirare nuovi investimenti per creare nuove infrastrutture, sfruttare l'energia solare, creare occupazione. La partita, prosegue il collega, non è solo economica. La partita non è solo economica, è anche molto politica, e la Grecia sta subendo una riduzione della sovranità. E qui risponde Schulz con un approccio, come dire, che è anche una riflessione su tanti dibattiti intorno all'Europa, quando c'è un ruolo troppo basso, come in politica estera c'è una protesta in questo senso, quando invece l'Europa è troppo presente c'è una protesta in direzione opposta. Bene, Schulz dice: l'Unione è una federazione di stati sovrani, non un vero e proprio stato federale. La Grecia, come tutti i paesi che hanno aderito all'euro, partecipa a un sistema di regole che prevede un trasferimento di sovranità monetaria a livello transnazionale. Questo automaticamente limita la sua sovranità. 24 mattino. Sono le 8:22 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donelli, e con me nel preparare questo programma da Viola Bottoni, da Elisabetta Fusconi, da Miriam Lucchetti e naturalmente dal nostro Peter Bescapè in regia. Raccontare una guerra significa andare in luoghi sconvolti dal caos, dalla distruzione, dalla morte, e cercare di portare una testimonianza. Significa cercare il vero, la verità, in una tempesta di propaganda, di bande armate, di eserciti, di tribù, di scontri di terroristi. E certo, significa anche prendere dei rischi, non solo per te stesso, ma spesso anche per le persone che ti circondano. Così una lettura, un discorso di Mary Colwyn, che è uccisa ad Homs, che qualche tempo fa dava durante a Londra, durante un servizio, una giornata dedicata ai feriti e alle vittime di guerra al Sainsbury's Church, alla chiesa di Sainsbury's di Londra, e aggiunge un passaggio importante. Dice: nonostante tutti i video rassicuranti, i filmati, quelli del Ministero della Difesa, dal Pentagono, e tutte quelle comunicazioni, quel linguaggio asettico che descrive le bombe intelligenti e la precisione dei bombardamenti, le scene sul terreno sono rimaste, è impressionante, scrive, gli stessi da centinaia di anni. Sono crateri, sono case bruciate, sono corpi mutilati, sono donne che piangono per i figli ed i mariti, sono uomini per le loro mogli, per le loro madri, per i loro figli. Questo un breve passaggio di un discorso che riporta questa mattina il Guardian, www.guardian.co.uk, per chi volesse approfondire. E da qui ripartiamo con il nostro collega inviato al Alberto Negri. Buongiorno Alberto. Buongiorno a voi. Allora Alberto, questo è, come dire, un profilo, ma quello che vorrei affrontare subito con te, la casa, questo luogo che è stato bombardato, era un luogo noto e diventa un bersaglio, un target, insomma. Qui il discorso dell'errore, dell'incidente è completamente fuori luogo, mi sembra. Dopo settimane e mesi di assedio a Homs, credo che ormai l'esercito di Assad e le forze di Assad avessero individuato i punti critici anche di questa città. Teniamo conto che Homs non è composta soltanto dalla popolazione che si oppone ad Assad, ma anche da un'altra parte della popolazione, è abitata anche da quartieri alawiti che forse non sono del tutto schierati con l'opposizione armata o con la resistenza contro il regime. Quindi ottenere certe informazioni forse non è così difficile. Certo, avevamo assistito nelle scorse settimane a cose straordinarie, cioè Al Jazeera trasmetteva da dentro la città, molti reporter si erano infiltrati dentro. Ricordo tra l'altro Anthony Shadid del New York Times, che poi è morto sulla strada di ritorno per un attacco d'asma. Avevamo visto cos'era successo l'11 gennaio, ero lì quando Gigi Akie è stato ucciso da un colpo di mortaio. Allora non si capiva bene chi avesse sparato, se erano colpi dell'esercito o del fronte ribelle. e credo che i media siano diventati anche lì un bersaglio, anche perché sono quelli che testimoniano quello che sta accadendo. Mary Colvin nel suo ultimo servizio per la BBC paragonava Homs a Srebrenica, cioè la città martire della Jugoslavia, quella che nel 95 subì una pulizia etnica straordinariamente feroce, con 7.000 morti, e lei aveva visto tutto questo, aveva l'esperienza, capiva quello che accadeva, i suoi servizi sono stati sicuramente qualche cosa che poteva dare molto fastidio alla propaganda del regime. Ecco Alberto, Srebrenica, che ovviamente è una memoria anche molto dolorosa per l'ex Jugoslavia, ma per l'Europa in quel caso erano presenti gli olandesi, per anni si è discusso, c'è stato un processo, ma insomma, e Siria però è un altro mondo. Allora io ti chiedo, questo riferimento a Srebrenica è anche un'implicita accusa all'inazione, ma c'è davvero una possibilità di azione all'interno di un paese come la Siria da parte della comunità internazionale? Beh, diciamo che in qualche modo già questa Siria è una sorta di proxy war, come la chiamano gli inglesi, gli americani, c'è una guerra per procura, nel senso che già le influenze straniere si fanno sentire dentro. Basti pensare al fatto che il Free Syrian Army, cioè una parte dell'opposizione armata che è composta da vari gruppi, anche molti sono locali, ha una base in Turchia dall'altra parte del confine. È stato abbastanza accertato che c'è un sostegno all'opposizione che viene dal Qatar, dall'Arabia Saudita e probabilmente anche da gruppi sunniti dell'Iraq, mentre il regime è fortemente sostenuto dall'Iran, dagli Hezbollah e fortemente sostenuto dalla Russia e dalla Cina, che vedono in Damasco una sorta di linea rossa della loro geopolitica in Medio Oriente. Insomma, una Siria che proprio, e qui anche ricorda la frase della giornalista uccisa, che racconta, di fatto evoca e invita a non confondere l'attualità delle guerre con il passato che non cambia, che è fatto di violenza, di morte, ma anche di intrighi di interessi internazionali. Uno sguardo alla mappa della Siria, oggi come sempre ci racconta di confini con l'Iraq, con la Turchia che hai citato, con una grande vicinanza con l'Iran. In tutto questo, allora, l'affermazione di rafforzamento di sanzioni, di misure economiche, ha un senso o siamo davvero di fronte anche un po' quasi al ridicolo? Ma diciamo che questo episodio di ieri, che è un episodio brutale che ha colpito tutti, anche me personalmente, da quanto conoscevo Mary Colvin, perché avevo visto il mio Schlick soltanto 3 settimane fa partire dal suo ultimo viaggio con Xi Jinping e Sons, beh, qualche cosa incide. Siamo alla vigilia di questa riunione che ci sarà domani a Tunisi, cosiddetta degli amici della Siria, dove ci saranno molte componenti. Sappiamo bene quali sono un po' gli schieramenti. Il mondo arabo delle petromonarchie del Golfo chiede addirittura un sostegno armato all'opposizione, il CNS, il Consiglio Nazionale Siriano, chiederà di armare questa opposizione. Gli americani hanno preso una posizione dopo un po' più prudente, nel senso che non vogliono essere direttamente coinvolti. Gli europei hanno una posizione intermedia tra quella americana e quella degli arabi del fronte anti-Assad. Cosa può succedere a questo punto? Può succedere qualche cosa che è una lunga notte. Quello, il vero problema di questa situazione siriana e il vero grande rischio è che si prolunghi il bagno di sangue, e questo bagno di sangue può contribuire in maniera decisiva a far scivolare questo paese verso la guerra civile, una guerra civile irrimediabile, come ne abbiamo già viste per esempio in Libano e in Iraq negli ultimi anni. E questo è il vero problema. Oggi il grande protagonista della scena siriana, a parte il regime, la sua repressione, i gruppi armati, è la paura che sta attanagliando questa popolazione, che

è ancora limitativo guardare al problema pronto soccorso e ospedali, perché è un riflesso, il risultato di un problema che è più ampio, che è esattamente l'invecchiamento della popolazione e quindi la necessità di avere strutture alternative all'ospedale. L'ospedale è in queste condizioni per acuti perché finisce per supplire a tutto ciò che manca nel resto della società, tutte le mancanze di risposte più economiche, più semplici, che dovrebbero venire. Certo. Molte delle persone che sono in ospedale non hanno bisogno della TAC, della rianimazione o di un ospedale per acuti, hanno bisogno di una situazione abitativa protetta che costa 10 volte meno il posto letto in ospedale, ma che nel Lazio non c'è. Le faccio un esempio, voi siete a Milano, nella Lombardia e comunque ad aprile, 6 aprile 2011, è stata una lettera simile di 8 primari dei pronto soccorso di Milano, a partire da quello dell'Iniguarda, che in qualche modo disegnava una situazione non dissimile. Comunque in Lombardia ci sono 50.000 posti letto in RSA, residenze sanitarie, cioè strutture protette per anziani, per disabili, eccetera. Nel Lazio ce ne abbiamo 6.000. Sì, sì, no, ma è chiaro che tra l'altro Milano, guardi, vedo stamattina tra i vari titoli che ho letto velocemente, storie di periferia e tensione al sacco di Milano, nell'ospedale di frontiera anche i vandali all'assalto, il sacco non dista più di 2 chilometri in linea d'aria da dove vi parliamo questa mattina, solo 32 posti a sedere al sacco di Milano, un ospedale importante, ecco, un paziente su 4 deve restare in piedi. Direi che è chiarissimo a tutti che non è una questione, in questo caso, che non riguarda Roma, tutt'altro. Scusate. La medicina difensiva, lei diceva, è vero, a volte si creano un clima che ti pone in grande difficoltà. Allora, in Italia, come altrove, c'è una certa aggressività, no, sul tema mala sanità, ma sa che cos'è devastante? È devastante sapere, e basta andare su internet, addirittura nelle pagine dei giornali, per trovare annunci di questo tipo. Se pensi di aver subito un torto, un danno da mala sanità, rivolgiti a noi, senza spese e senza rischi. Chiarissimo, cioè, e quindi vuol dire, se pensi che il tuo medico possa avere sbagliato, denuncialo e rivolgiti a noi, chiedi dei soldi. Questo lo lego al fatto che poi un medico, dal suo punto di vista, sarà portato, magari se deve fare 3 esami, forse forzo la realtà a farne 6, perché comunque questo lo rassicura. Sbaglio, dottore? No, sì, questo sicuramente, ma le dà una precisazione. Nel momento in cui a un medico arriva una denuncia, e ripeto, vengono fatte senza spese, perché l'avvocato dice prendo una percentuale, certo, sulla vittoria, punto. Nel momento in cui si apre il processo, il medico è stato già condannato, ma non per la stampa, non mi riferisco a questo, ad altro. Cioè l'assicurazione, nel momento in cui tu comunichi un sinistro, ti sospende l'assicurazione e per riassicurarti paghi il doppio o il triplo della cifra. Chiarissimo. Quindi quella condanna l'hai già portata a casa. L'hai già portata a casa, Adolfo Pagnanelli, grazie. Abbiamo un suo collega che l'altro giorno l'abbiamo invitato questa mattina, il dottor Gianluigi Tomei, medico di famiglia a Roma. Buongiorno dottore. Buongiorno a voi. Lei l'altro giorno ha scritto una lettera, il titolo è piuttosto, come dire, ci ha colpito. Io medico pagato per non lavorare, sono un medico di famiglia, 60enne, 2 specializzazioni, ho aderito volentieri al progetto della regione Lazio che vede l'impiego dei medici di famiglia all'interno del pronto soccorso. Lei ha aderito, è andato e che cosa è successo? Ma è successo che dalle 8 di mattina fino a mezzogiorno in pratica non ho fatto una visita. Perché? Non c'era nessun malato? No, perché lo sportello al quale io ero stato, diciamo, assegnato, era il percorso veloce influenza, era relativo soltanto a pazienti con sindrome influenzale. Quindi per solo influenze, lei non poteva occuparsi d'altro? Non mi potevo occupare d'altro, che ne so, un'otite, banale mal di pancia, insomma. E per cui sono stato 4 ore a leggere il giornale e bere 3 caffè. Ora questa mia lettera ha sollevato un vespaio dal punto di vista sindacale, eccetera. Io non volevo assolutamente fare una critica gratuita all'iniziativa, che comunque mi sembra nobile, no? Qualsiasi momento succede un'emergenza. Cioè, c'è un'emergenza, si affiancano altri colleghi, non mi sembra che ci sia. Io ho la disponibilità, chiaro, come molti altri colleghi. E, però ho visto che diciamo, mi sono sentito un po' il medico a metà, nel senso io ho 60 anni, una certa esperienza nel campo. Lei è specialista, tra l'altro, in ginecologia e urologia, come dire, aveva altro da fare anche oltre a... Quindi la professionalità, secondo me, doveva un pochino essere... Chiaro, una questione di organizzazione... Avete sentito dunque il dottor Tomei che ci raccontava una sua giornata, direi particolare, almeno dal punto di vista suo, che l'ha raccontata, nostro che ascoltiamo, e che al contrario non pensiamo che queste siano delle denunce se non per migliorare delle situazioni. Situazioni che sono obiettivamente molto complicate, con una aggravante che ci ha descritto il dottor Pagnanelli sul fatto che la crisi morde, la crisi colpisce e dunque cambia anche certi comportamenti. Poi ci sono anche delle storie positive. Oggi abbiamo cercato, non è che ci siano delle situazioni uguali a se stesse dappertutto, sui quotidiani ne vengono riportati in Emilia e così via. Una che forse può andare in questa direzione ci arriva da Palermo. Questa mattina con noi il dottor Agostino Geraci, che è il direttore del pronto soccorso dell'area di emergenza dell'azienda ospedaliera del Civico di Palermo. Buongiorno dottore. Buongiorno. Voi niente code, a quanto pare? No, anche da noi non esageriamo. Dei problemi che sono più o meno analoghi a quelli testimoniati dai colleghi presenti, ma dobbiamo dire che sono orgoglioso di poter parlare in termini positivi della sanità meridionale, almeno in questo caso, nel caso che ci riguarda, perché effettivamente da un anno a questa parte abbiamo inciso in maniera sensibile su alcune criticità che avevamo rilevato e che un anno fa avevano determinato un terremoto. Ecco, quindi in un anno avete cambiato le cose, cosa è successo? Avete avuto più soldi, sono ridotti i pazienti, guardi, ci dica la... Guardi, il miglioramento di processi così complicati e articolati come quelli che caratterizzano l'attività di un pronto soccorso non può che essere il risultato di una chiara e forte volontà politica di innovazione, che si esprime anche a volte attraverso delle scelte molto coraggiose, a volte soggette a contestazione, e attraverso anche la scelta di uomini, soprattutto di strategie. E questo è accaduto al Civico di Palermo circa un anno fa, quando sono state volute e create quelle condizioni per imprimere un brusco cambio di direzione nella gestione di alcuni processi e percorsi che sono strettamente correlati all'attività del pronto soccorso. Ci fa un esempio su quello che è stato un esempio di coraggio, visto che... Ma guardi, mi riferisco per esempio al controllo degli accessi in ospedale. Chi fa il mio lavoro sa benissimo a cosa mi riferisco. Oggi in ospedale entrano i pazienti in urgenza attraverso il pronto soccorso e poi i pazienti in regime programmato. È assolutamente opportuno, necessario modulare il rapporto tra ricoveri programmati e ricoveri d'urgenza, tenendo conto delle necessità, soprattutto in alcuni periodi dell'anno, di variare questo rapporto a favore dei ricoveri d'urgenza, riducendo quindi al minimo o bloccando, se necessario, per brevissimi periodi i ricoveri programmati. Tutto l'ospedale deve essere settato sui flussi di attività della propria area di emergenza. E quindi è necessario conoscere, misurare, controllare l'attività delle unità operative di degenza, che dovrebbero rendere poi disponibili i posti letto per i pazienti che attendono in pronto soccorso. Nello specifico, per esempio, per ciò che riguarda, per quelle criticità che hanno riguardato gli ospedali romani, sicuramente la criticità rappresentata dalle lunghe permanenze in attesa di ricovero in pronto soccorso, molto poco in termini di responsabilità imputabile all'attività della singola unità operativa pronto soccorso, trattandosi piuttosto del fallimento di un intero sistema. Certo, grazie. Dottor Geraci, la fermo solo un secondo. Allora, Tullio da Siena, poi naturalmente torniamo dal dottor Pagnanelli per anche commentare su questa appunto su ciò che ha detto il dottor Geraci da Palermo. Da Siena, Tullio, buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io ho lavorato in ospedale per 40 anni, per molto tempo ho fatto anche il pronto soccorso. Secondo me il peggioramento è avvenuto quando i medici di famiglia non seguono più i pazienti come prima. Lei se c'è una festa infrasettimanale, per 5 giorni, 6 giorni non trova il suo medico, e al pronto soccorso ci sono file lunghissime. Grazie Tullio. I medici di famiglia vengono coinvolti dal nostro ascoltatore, ma l'avremmo fatto, nel senso che sono uno degli aspetti del problema, Pagnanelli? Sì, io la domanda che farei al collega che ha lavorato in uno di questi ambulatori blu, che sono stati una vera follia organizzativa, è nel momento in cui lui ha fatto nessuna visita in 6 ore, nel pronto soccorso, che questi ambulatori blu stanno all'interno di ospedali con pronto soccorso, con pronto soccorso complicato, quanta gente c'era? E le dirà che c'era una lunga fila. Dottor Tomei, approfittiamo, ce lo dica direttamente. Certo. Quanta gente c'era? Io proprio di fronte alla mia postazione c'erano almeno 50 persone in attesa di essere visitate con codici bianchi, gialli, e io stavo con le mani incrociate. Perfetto, questo torna. Quindi, dottor Pagnanelli, confermato. Questo per dire che? Lì è stata una scelta sbagliata, dettata dal il problema dell'influenza, che significa poco e nulla in termini così generici, e per nulla discussa con gli operatori, perché era evidentissimo che sarebbe successo questo. Diverso è il discorso di mettere a disposizione una forza lavoro, com'è un medico di medicina generale esperto, a fianco agli altri medici del pronto soccorso, e quindi ampliare l'offerta. Decisione sbagliata. Chi prende questo tipo di decisione all'interno di una struttura sanitaria? È stata una decisione della regione di aprire questi ambulatori. Quindi di nuovo siamo tornati alla politica. Il collega da Palermo dice, ha detto subito, abbiamo in un anno fatto un percorso, senza, appunto lo ha anticipato, senza voler essere presuntuosi, un grosso percorso, l'abbiamo fatto perché sono state assunte delle decisioni politiche e coraggiose. Signori, io ringrazio i nostri ospiti di questa mattina, il tempo, come dire, la cronaca incalza, lo ricordo, il dottor Agostino Geraci, direttore del pronto soccorso dell'area d'emergenza al Civico di Palermo, il dottor Adolfo Pagnanelli, membro del sindacato SPES, medici d'emergenza sanitaria, il dottor Gianluigi Tomei, che è medico di famiglia, sicuramente avrebbe avuto ancora da dire su questo tema, che ci ha raccontato anche una sua esperienza precisa e, devo dire, francamente piuttosto sconfortante. Ci torneremo su senz'altro, grazie a tutti voi. Ora gli aggiornamenti da GR24, noi ci sentiamo come sempre domani mattina intorno alle 7:20, a domani.